Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Era una bambina che amava la vita, positiva, allegra. Piangono la scomparsa di Stella, la bimba di 9 anni strappata alla sua giovane vita il 26 dicembre per colpa di un incidente stradale. Era in macchina con la mamma e i suoi fratelli, teneva il suo fedele cagnolino Sandy tra le braccia. Era in viaggio con la sua panda quando è stata travolta dall'auto guidata da un giovane romeno, ubriaco, drogato e per di più senza patente. Il padre di Stella, Adolfo, ex Fantino, era dietro di loro in un'altra macchina. Difficile immaginare come si sia sentito quando ha visto quella scena terribile. Eppure mamma Giannina e papà Adolfo non hanno perso generosità e amore per il prossimo. Hanno voluto donare gli organi di Stella, salvando la vita di altri 5 bambini. Certo, è una maniera singolare per iniziare l'anno, ma devo dire che è la cosa che più colpisce, che il primo annuncio che viene dato all'alba del nuovo anno è quello del ministro di Grazia e Giustizia, Anna Maria Cancellieri, che proprio il primo giorno dell'anno, a poche ore da un incidente causato da un pirata della strada con 2 donne morte in Calabria, parla di reato di omicidio stradale. Noi ne abbiamo parlato da anni, sono anni che a questi microfoni insistiamo sull'idea che non possa passare con tanta leggerezza e tanta leggiadria il fatto che una persona colpevolmente, consapevolmente, si metta alla guida in condizioni di non perfetta possibilità di gestire i propri riflessi, le proprie azioni, uccida delle persone, e quello non sia un reato equiparabile a un omicidio vero e proprio. Addirittura si è parlato di ipotesi di ergastolo alla patente, cioè il divieto assoluto di guidare per persone che in maniera così incosciente non si pongono il problema che un essere umano alla guida di un'automobile diventi, se non è in condizione di gestire quel mezzo, un pericolo reale, nefasto, letale. Beh, vi va di iniziare l'anno con questa riflessione? 800240024. Del reato di omicidio stradale si parla da tempo e da 2 anni, per iniziativa di alcune associazioni di familiari delle vittime e di sostenitori della polizia stradale, sono state raccolte oltre 75.000 firme. Si starebbe lavorando ad un pacchetto di articoli che prevedono la revoca definitiva della patente per chi, in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe, provochi un incidente mortale, il processo per direttissima, l'obbligo di una provvisionale e l'inasprimento delle pene fino a 10 anni. Abbiamo un pacchetto di norme di giustizia che intendiamo portare entro gennaio. La cosa più importante che dobbiamo mettere a punto è l'efficacia delle norme, perché le norme ci sono, ma non sono efficaci e non sono sempre immediatamente operative. L'intenzione anticipata dal ministro della giustizia Anna Maria Cancellieri alla TG5 di portare in consiglio dei ministri entro un mese un pacchetto di norme. Certo, c'è da dire che è difficile gestire un'opinione pubblica già in sé lacerata da un'infinità di problemi, da un'infinità di ambiguità, alcune palesi, alcune sommesse nascoste di fronte alle immagini il giorno di Santo Stefano di una bambina di 8 anni uccisa, Stella, la madre straziata. Una morte di cui non ci si dà assolutamente spiegazione, un automobilista ubriaco, drogato, che è stato arrestato, addirittura senza patente, l'ha ammazzata, l'ha uccisa. Ma è uno dei tanti, è un episodio che ormai si ripropone con una sua nefasta e singolare ricorrenza. Avvocato Gianmarco Cesari, buongiorno. Buongiorno. Noi ci siamo sentiti, ma nemmeno un mese fa, penso. Lei è avvocato dell'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada. Ricordo il sito internet www.vittimedellastrada.org. Cosa ne dice dell'uscita del ministro Cancellieri? È mettere una pezza a un'emotività già abbastanza sottoposta a stress, che sotto le feste di Natale si vede la foto della bambina massacrata e ancora una volta vuole spiegazioni? O è un passo avanti rispetto a quello per cui combattete da anni? Ma io penso sia un passo avanti, anche se di spot ministeriali in precedenza ce ne sono stati tanti. Penso sia un passo avanti anche perché siamo arrivati a una situazione veramente insostenibile. La morte di Stella, di questa bambina, è una goccia che fa traboccare un vaso. Certo, è singolare che nel nostro paese ci debba essere sempre La foto di un bambino straziato, sofferente, massacrato, sì, perché si muova. 800240024, chiamate, date il vostro parere. Era un argomento molto sentito dal nostro pubblico. Siete d'accordo che occorra legiferare anche in maniera abbastanza veloce riguardo al reato di omicidio stradale? Prego, avvocato, continui pure. Sì, ecco, dicevo, una goccia che ha fatto traboccare il vaso, però noi vogliamo portare l'attenzione anche sul fatto che non occorre considerare per reato d'omicidio stradale solo quello commesso in stato di ubriachezza e di alterazione da sostanze psicofisiche o psicotrope, ma anche quello commesso con azzardo, con temerarietà e con distrazione soprattutto, perché molti bambini sono anche morti a causa della distrazione. Alla ecco, vogliamo rifare il quadro, perché è molto facile andare sull'onda dell'emotività, ma bisogna spiegare nello specifico cosa si chiede rispetto a questa legge. Il caso più tipico che fa indignare e scendere la gente in piazza con le asce e le falci è lo straniero ubriaco, drogato, senza patente, scriteriato, prende una macchina e ammazza, purtroppo quasi sempre vittime innocenti, nel senso appartenente alla categoria dell'umanità più innocente, quindi bambini, povere madri di famiglia, via dicendo. Ma ci sono anche altre situazioni da osservare? Sì, assolutamente, ci sono situazioni che sono state inquadrate in alcune norme del codice della strada tipiche, tipo sorpasso azzardato in curva, invasione contromano, investimento di un pedone sulle strisce pedonali. Ecco, ci sono alcune fattispecie tipiche causate soprattutto da distrazione e d'azzardo che rappresentano delle condotte cosiddette spericolate, che non è sempre soltanto, non è sempre e soltanto lo straniero ubriaco e drogato, esatto, ma anche l'integerrimo cittadino italiano che passa sulle strisce e ammazza qualcuno. Esatto, la nostra testimonial della campagna contro la distrazione alla guida, per esempio, è Matilde Margaritelli, uccisa all'età di 8 anni a Marciano sulle strisce pedonali a causa di una distrazione. E proprio noi con questa bambina, a cui il papà ha dedicato un sito che si chiama ioeromatilde.it, abbiamo voluto richiamare l'attenzione sulla necessità di sanzionare ancor più adeguatamente dei comportamenti criminali che purtroppo vengono banalizzati. Sentiamo Antonio, lavora al 118. Antonio, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Io chiamavo proprio perché mi avete anticipato introducendo quello che banalmente si fa tutti i giorni, che poi alla fine provoca più morti del caso eclatante dell'ubriaco o il drogato al volante. Ecco, il suo è l'osservatorio, diciamo, privilegiato rispetto al nostro. Ci dica qualcosa in più proprio dalla sua esperienza. Guardi, di incidenti, io questo lavoro lo faccio da parecchi anni e di incidenti ce ne sono tutti i giorni, da lievi a gravi, diciamo. Però quello che succede ancora oggi nel 2014, parlando di bambini, sono continuamente incidenti provocati con bambini non assicurati, ad esempio con i seggiolini omologati piuttosto che le sedute, le alzatine, eccetera. E arrivano questi bambini, se ne vedono un sacco anche quando porto mio figlio all'asilo, che arrivano tranquillamente saltellando in macchina. Ed è la cosa più pericolosa in assoluto. Sì, perché diciamolo con la crudezza necessaria, il bambino schizza fuori del parabrezza se c'è, esatto, un tamponamento. Gli ultimi incidenti avvenuti anche nella nostra zona, io parlo del Gallaratese, Varese, sono avvenuti proprio così, bambini non assicurati che sono volati fuori dal finestrino, ecco. Sì, si va a spiaccicare come un gattino sull'asfalto, diciamolo così la gente ci pensa un po' più. Esatto, e qui bisognerebbe più che inasprire la sanzione, perché purtroppo noi italiani capiamo solo quando ci si tocca il portafoglio, ma il genitore dovrebbe veramente pensare che un semplice tamponamento a 40-50 all'ora per un bambino che non è legato e va a sbattere contro il parabrezza produce come una caduta dal secondo piano. Ecco. Grazie. Leonardo, ascoltatore Leonardo, una domanda. Pronto? Leonardo, sì, l'ascolto. Chiuda la radio perché c'è l'eco. Sì, un attimo. Sì. Allora, la mia domanda è questa. Io sono il papà di una vittima della strada. Mia figlia è morta il 5 gennaio del 2012. C'è un solo indagato per l'omicidio di mia figlia. In tutto questo ci sono coinvolte altre due persone. Il tribunale ha chiesto l'archiviazione del caso, noi ci siamo opposti, hanno riaperto il caso e le indagini sono ancora in corso. La mia domanda era, conoscendo i nostri politici, come si può coniugare il decreto svuota carceri con la legge sull'omicidio stradale che vuole applicare la Cancellieri? È molto chiaro, l'avvocato sta prendendo appunto l'ultima telefonata, poi faremo dare le risposte. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno, chiedo scusa. Il mio tono è questo, nel senso, io nel momento in cui una persona prende in mano una macchina sotto effetto di alcol, sotto effetto di droga, sa che può uccidere qualcuno e di conseguenza lo tratterei come un omicidio premeditato, non come un omicidio colposo, perché abbiamo in mano delle vere e proprie armi nel momento in cui... È chiaro Marco, avvocato Gianmarco Cesare, cominciamo dall'ultima domanda, sulla qualità dell'omicidio, diciamo, la fattispecie dell'omicidio che prevederebbe appunto questa legge se andasse in porto. Ecco, allora il discorso è che l'omicidio comunque è un reato contro il bene giuridico della vita e come tale deve essere protetta la vita. È impensabile quindi che il reato di omicidio venga banalizzato e ridotta a una mera commedia tante volte davanti a un giudice per udienza preliminare con un patteggiamento che svilisce proprio la garanzia della norma che prevede l'omicidio colposo nell'articolo 5. Perché l'omicidio con l'accetta rispetto all'omicidio con l'automobile, esatto, stranamente sono diversi. Io ho sempre detto che se parallelamente a una riforma dell'omicidio stradale non si garantisce una corsia preferenziale per i processi che riguardano proprio l'omicidio e magari destinandoli tutti in una corte d'assise e non in una banale udienza preliminare davanti a un GIP come fosse un qualsiasi reato come tutti gli altri. Che poi passano altri 3-4 anni prima che ci si riveda in tribunale. Esatto, noi andremo sempre a considerare il reato d'omicidio stradale un reato di serie B quando non lo è. Come fosse allora, una leggerezza, un incidente, andata male. Certo, sì, una cosa quasi normale che accade perché tutti dobbiamo andare in macchina e si sa che la macchina, circolare in macchina è pericoloso. Ecco, quindi bisogna dare veramente garanzia alla norma che prevede l'omicidio. E sullo svuota carceri che diceva l'ascoltatore prima? Sullo svuota carceri ritorno proprio anche lì, il discorso che se anche il reato d'omicidio viene, se i reati contro la persona vengono confusi con tutti gli altri reati contro il patrimonio, contro lo Stato, contro la pubblica amministrazione, ecco che viene anche chi ha commesso un efferato omicidio va a beneficiare magari di un decreto svuota carceri e quindi questa è veramente una carenza, una pecca, una svista del Ministero perché doveva escludere dal decreto svuota carceri tutti i reati contro la persona, in particolare contro il bene della vita. Senta, noi ci fermiamo soltanto un istante, diamo le informazioni del traffico, però mi sembra interessante, questo è il punto di riflessione tra pochi secondi, mi sembra che sia proprio il cambio di un punto di vista, di atteggiamento, toglierci dalla mente che se una persona uccide con un'automobile mentre guida non è una trascuratezza, una leggerezza, è paragonabile a un vero e proprio omicidio a tutti gli effetti. Melog, cronache meridiane. Le sue condizioni sono gravi. Chi l'ha ridotto in fin di vita è fuggito senza prestare soccorso. Secondo alcune testimonianze, alla guida dell'auto che ha centrato in pieno il 12enne, che ha fatto un volo di 20 metri, c'era una donna. Secondo i carabinieri, potrebbero infatti portare all'identificazione dell'uomo che mercoledì scorso, alla guida di un SUV rubato, ha travolto e ucciso a Padova un pensionato di 77 anni, dandosi poi alla fuga. Si cerca un uomo sulla trentina, alto circa 1,70 m, di carnagione chiara e capelli corti, che al momento dell'incidente indossava jeans e una maglia a righe orizzontali. Dettagli forniti 800 24 00 24, parliamo di omicidio stradale, ha detto il ministro Cancellieri, una delle prime cose che verranno fatte con l'anno nuovo è introdurre il reato di omicidio stradale e su questo ci stiamo interrogando visto che è un argomento di cui spessissimo abbiamo ultimamente parlato ma anche in tempi più remoti. Guido, buongiorno. Sì, buongiorno. L'ascolto. Telefono da Padova. In relazione anche a quanto avete detto sulla criminalizzazione di coloro che guidano, io faccio un mestiere... No, coloro che guidano, coloro che ammazzano con una guida scorretta, chi guida non è un criminale. Sì, allora io faccio un mestiere che mi porta a fare 60.000 km l'anno in macchina e penso innumerevoli volte mi sono trovato in autostrada con lo specchietto retrovisore nel punto cieco oppure... mentre era in sosta a fare dietro front magari dietro marcia magari con qualcuno che attraversava la strada senza attenzione. Allora, io credo che si debba distinguere assolutamente da chi ha un comportamento, non dico premeditato, ma scorretto. No, quello che dice lei è molto saggio. Allora, in concreto, mi dia, se lei dovesse dare un suggerimento al legislatore dalla sua esperienza di 60.000 km all'anno, quale sarebbe la distinzione che si augurrebbe che fosse fatta? Visto che lei è esperto. Io non sono un legislatore, quindi mi... No, ma dal suo punto di vista tecnico, io, lei è un tecnico a cui domando, mi spiega esattamente se dobbiamo dare una maniera per non far entrare nei rigori di questa nuova legge anche chi in realtà non compie un atto criminale e nemmeno una disattenzione voluta, ma in una zona cieca dello specchietto, che so bene quanto sia pericolosa, fa male a un'altra persona. Quali sarebbero, diciamo, le distinzioni che lei suggerirebbe di fare? La distinzione che suggerisco io sono sempre posto, nel senso che fatte le indagini uno stabilisce che in quel caso non c'è diciamo reato premeditato o comunque legato a una scorrettezza di guida, ma semplicemente a una fatalità. Il problema nemmeno è dolo, cioè nemmeno di essersi messo alla guida ubriaco, stanco. Esatto. Il problema è che la fatalità non è contemplata dal legislatore, non credo almeno. Sentiamo l'avvocato Gianmarco Cesari, ricordo che è avvocato dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada. Forse è il caso di spiegare in concreto, avvocato, le faccio un esempio. Se io mi siedo alla guida ubriaco o strafatto di droga e ammazzo una persona, oggi cosa mi succede e cosa mi succederebbe nel caso che fosse approvata questa legge? Allora, adesso con il pacchetto sicurezza sono state già inasprite le pene e quindi si va da un minimo di 2 a 7 anni con l'aggravamento in caso di alterazione da sostanze o da alcol. Però se io prendo un'accetta e ammazzo mia moglie prendo molto più di 2 anni. Esatto, però quello che il nostro ascoltatore dice è che bisogna distinguere tra un reato semplicemente colposo con un reato caratterizzato da una condotta criminale. Che ha ragione però. Perché ha ragione, infatti può succedere a chiunque un momento che esatto, non è colpa sua. Come associazione noi sosteniamo che va bene per questi reati colposi stradali una pena da 2 a 7 anni, quindi la pena che c'è, ma quando l'omicidio si commette con azzardo o con temerarietà. Ecco, introduce queste cose che non ci sono nella legge finora, l'azzardo e temerarietà. Che attualmente non c'è questo distinguo dell'azzardo e della temerarietà come lo è già in altri paesi europei, come la Spagna per esempio, si raddoppia automaticamente la pena, quindi non si va più da 2 a 7 anni, ma si va da 4 a 14 anni. Poi sempre meno dell'omicidio. Però vede, l'azzardo e la terrorità deve essere ricostruito anche a livello obiettivo e tecnicamente. Per questo ma ci sarebbe l'arresto come in caso di flagranza di omicidio? Esatto, introducendo anche in questo caso... Cioè se viene la stradale una persona che gli fa il test, vede che era ubriaco, ha ammazzato una persona, gli mette le manette e lo porta via, non è che lo lascia lì? No, assolutamente no, a parte che è una facoltà di chi interviene fare il test... una mera facoltà e non è un obbligo, e anche qui c'è una carenza legislativa, perché se ci fosse un obbligo tutti si scatterebbe automaticamente il controllo e quindi molte persone sfuggono al test dell'etilometro. Anche se non lo fa subito, si beve 3 litri d'acqua, si fa. Esatto. Ma non ne parliamo poi del fatto dell'alterazione da droga, perché non esistono ancora una strumentazione perfetta per accertare immediatamente l'alterazione. Non c'è manco un protocollo condiviso, uno può dire. No, viene portata la persona in ospedale per farlo sottoporre alle analisi, però siamo ancora lontani da un'efficacia deterrente della strumentazione per contenere. Quindi ci prendiamo in giro, se poi in realtà non può essere nemmeno accertato è un po' difficile fare la legge, se non ci sono le strumentazioni per accertarlo. Infatti noi abbiamo una situazione in cui è una mera facoltà. In un paese in cui diciamo che c'è una percentuale altissima di gente che tira cocaina, vorrei vedere poi quanto tutti se la sentirebbero, perché io non so quale percentuale sia, ma io penso che gli italiani che stanno alla guida al sabato sera, se facessi un test a tutti sarebbero percentuali spaventose. Infatti per questo noi chiediamo sempre maggiori controlli e verifica delle patenti, proprio per prevenire assolutamente il verificarsi dell'incidente stradale con l'omicidio. Sentiamo Angelo, buongiorno. Buongiorno e buon anno. Dunque sono dal parere che io martedì ho avuto un incidente frontale andando a 50 all'ora neanche, uno dalla colonna dalla parte opposta è uscito, ho demolito la macchina. Se io mi trovo in difficoltà devo cambiare la macchina. La colpa era dell'altra persona che è uscita. Dall'altra persona, sì, però l'assicurazione mi dà il valore della macchina che vale, non so, 3.000 euro. Per me quella macchina vale anche 50.000 euro per il lavoro. Poi dal codice della strada, se noi guardiamo anche i pedoni, a me, proprio questa mattina, a 5 metri una signora mi ha attraversato sui pedoni. Andavo a 20 all'ora. Se uccido una strada, una signora sui pedoni, io devo, mi ritiro la patente, sono un delinquente. Bisogna anche insegnare alle persone che non si attraversa la strada sui pedoni, anche se hanno il diritto, ma devono guardare. Sì, diciamo, allora, uno dovrebbe andare molto piano nel passaggio pedonale. Certo, se una signora suicida gli si butta sotto la macchina, è però sempre comunque un problema. Fermiamoci un attimo, poi chiediamo all'avvocato, intanto si sta segnando. Christian. Sì, buongiorno. Volevo esprimere la mia contrarietà per quello, il reato di omicidio colposo. Penso che vada bene, però per determinati tipi di determinati casi. Ma l'ha detto l'avvocato, azzardo e temerarietà. Solo no, quando... ma ha detto anche distrazione. Ora, azzardo e temerarietà, poi bisogna vedere chi lo va. Beh, distrazione, perché... passare un incrocio quando, senza dare la precedenza o col semaforo rosso. Però, penso che sia capitato chiunque in un momento... magari di non darla a vedere. Se lei ammazzano un figlio, dice scusa, ero distratto, perdonami. Uno dice, però sì. Non posso neanche pensare che se attraverso non do la precedenza, non succede niente, non mi succede niente. Se ammazzo una persona, mi danno 14 anni. Credo che. Non... Ma gliela rigiro io. Se lei non ha il deterrente che va in galera, lei non ci starà attento sufficientemente in un momento in cui ha in mano la vita di un'altra persona. Avvocato Cesari. Esatto, cioè, infatti quello che dicevo io, va tutto ricostruito tecnicamente. Noi chiediamo infatti anche un'istituzione di un affidamento a personale competente per la ricostruzione della dinamica dell'incidente stradale caso per caso, perché prima di arrivare alla contestazione di un raddoppio della pena ci vuole un accertamento tecnico che dimostri che si è violata una norma cautelare specifica a cui corrisponde il raddoppio della pena. Allora, avvocato, vediamo da dove bisognerebbe cominciare a costruire, prima ancora che il legislatore si metta, poi bisogna vedere se si mette veramente a scrivere, quali sono gli strumenti che mancano, i pezzi che poi mancherebbero? Il pezzo che manca è il raccordo con alcune specifiche norme del codice della strada per cui va raddoppiata la pena in caso di omicidio. Quindi quando adesso c'è per la guida in stato di ebbrezza e per la guida sotto alterazione a sostanze stupefacenti, 186, 187 del codice della strada, ma per tante violazioni del codice della strada, come lo dicevo, sorpasso azzardato in curva o invasione o marcia contromano. Come il signore che ha detto, mi hanno distrutto la macchina, se ci rimaneva secco, era il tipico esempio, uno che sorpassa una fila e va contro nella corsia opposta è un omicida a tutti gli effetti, lo esatto. Sa. Esatto, ecco, questo raccordo attualmente con alcune norme del codice della strada, che poi sono state selezionate dall'Università di Firenze, dal Dipartimento di Meccanica, che è quello che fa le sperimentazioni sugli incidenti. Quindi c'è uno studio, non è che se lo sono improvvisato. C'è uno studio che noi abbiamo già portato all'attenzione del Ministero. Ma voi siete consulenti in qualche maniera su questa legge? Sarete chiamati? Siamo sempre chiamati a livello di audizione da parte delle commissioni, da parte del Quindi Ministero. Avrà modo di dire quello che dice sì, questa mattina a noi e a chi sì, di dovere. Questo studio dell'Università di Firenze, con un gruppo di lavoro coordinato dal professor Dario Vangi, è stato già portato all'attenzione del Ministero con la selezione di alcune norme del codice della strada specifiche su cui far corrispondere il raddoppio della pena. Claudio, un attimo, Claudio, velocemente. Pronto, sì. Volevo dire, a precisare quello che dice l'avvocato, che praticamente mi sembra di aver capito che grosso modo le linee sono quelle. Cioè basterebbe inserire la dicitura di chi non è in possesso delle qualità psicofisiche per la guida, o anche come titolo, perché chi non ha la patente comunque commette... Ci chiama Stefano, che non faccio in tempo a mandare in onda, un agente polizia stradale, dice anche le persone che girano senza copertura assicurativa. Avvocato, possiamo mettere... saranno messe nel pacchetto anche queste circostanze che dicono gli ascoltatori? Noi ce l'auguriamo, come associazione ce l'auguriamo, perché fino ad oggi guidare senza assicurazione sta diventando la normalità. Ecco, invece occorre veramente... Perché si rischia poco? Perché la normalità? sta diventando una novità perché sono sempre più le persone che non si assicurano. Perché costa tanto e loro non c'hanno. Perché costa tanto e perché alla fine si spera che l'incidente non succeda, e oppure ci sono anche. Ma uno può anche prendere l'autobus, andare a piedi, prendere il treno, fare l'autostop, esatto, fare tante cose. Ci sono anche tanti veicoli che vengono da paesi purtroppo extraeuropei che viaggiano senza assicurazione. Grazie, avvocato. Torniamo sull'argomento, quello che è molto seguito e interessante. Ci sentiamo domani.